fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ieri che oggi avrei continuato ad occuparmi del senso della scomparsa. Già vedo messaggi sulla pagina Facebook di persone che dicono: ah, ci staremo tutta la trasmissione con le mani in tasca. Il primo atteggiamento, infatti, istintivo di fronte all'enunciato di un discorso sulla scomparsa è fare gli scongiuri, e questo posso anche condividerlo. Ma esistono varie maniere per riflettere sul senso dello scomparire. Oggi il senso dello scomparire può essere anche non così drastico come veniva inteso in passato, o perlomeno abbiamo recuperato alcune possibilità di considerare sfumata la scomparsa di una persona quando la vita biologica ha termine, è proprio data dalla nostra difficoltà nel definire l'inizio e la fine della vita, lo stato di esistenza, lo stato di veglia, lo stato di totalità delle proprie facoltà umane, proprio perché oggi la scienza e la tecnologia ci forniscono dei supporti molto più potenti per mantenerci comunque apparentemente vitali o parzialmente vitali o anche totalmente vitali, quando anche all'apparenza poi sembriamo non avere tutte le caratteristiche dell'essere umano vivente e consapevole. Questo naturalmente apre dei problemi difficilissimi ad essere trattati in maniera superficiale, ma questa mattina metteremo insieme, assembleremo alcune fattispecie, alcuni punti di vista, alcuni piccoli contrappunti sul senso dello scomparire. Il primo me lo suggerisce questa mattina la cronaca. Non avrei pensato di fare questo attacco di trasmissione, però mi sembra che relativo al senso di scomparsa totale, scomparsa parziale, senso di scomparsa, sia formidabile la notizia importante di cui si dibatte questa mattina della signora di Vigevano. La signora di Vigevano è una moglie che vorrebbe un figlio dal marito in coma. La scienza medica permette che una persona in coma possa generare un figlio attraverso naturalmente una procreazione assistita, una maniera artificiale di essere fecondata, ci sono tutte le fattispecie possibili. Però i giudici hanno detto a questa signora che non è possibile, perché non è stato accertato il consenso da parte di questo essere che è in coma, quindi non ha la possibilità di esprimere un consenso preventivo sulla volontà di avere un figlio. Naturalmente su questo si discuterà tantissimo. Da una parte, se qualcuno possa disporre anche dei nostri spermatozoi, della nostra facoltà di generare, quando noi non siamo più padroni della possibilità di trasferirli in un altro essere umano, se una legittima consorte ha possibilità di avere questa estrema maniera di consolazione o di continuazione del proprio rapporto affettivo, del proprio rapporto coniugale, del proprio rapporto amoroso, di avere un figlio da un marito che in realtà è sospeso fra vita e morte. Beh, il problema è molto difficile. 800240024, cominciamo a parlare del senso della scomparsa riflettendo su questa notizia insieme a Mauro Cosmai. Mauro Cosmai, buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo sentiti qualche tempo fa su un tuo libro, I tabù della modernità. Tutte le cose che nella nostra epoca, che sembra assolutamente liberata da ogni costrizione, da ogni regola, da ogni ordine superiore, che però rimangono e sono molto difficili anche da individuare, perché quasi che la modernità si vergognasse dei propri tabù. Ecco, in questa notizia fresca di questa mattina, tu individui alcuni dei sintomi della tabuizzazione contemporanea? Ma il discorso è tanto per essere banali, è complesso, perché c'è un elemento di tabù che vieta comunque a una persona di così di poter far continuare, quindi già qui viviamo il rifiuto della morte, però nello stesso tempo c'è una componente o la etica che è scandita dalla legge, dove in pratica si incoraggia la nascita di un orfano. E quindi c'è uno iato tra quello che può essere una legittima aspirazione a un figlio, che sia una continuazione, e nello stesso tempo un'analisi diciamo impietosa su quelle che sono le finalità di questa. Questo è il parere naturalmente del versante bioetico, che dice assolutamente no, non si può decidere con egoismo una sola persona di avere un figlio che sa già che in partenza avrebbe il padre morto. Ma ricordo che tu sei psicanalista e sessuologo, quindi affrontiamo il problema in un versante che può anche soprassedere per un istante all'aspetto bioetico. Quanto in un rapporto affettivo, una relazione interrotta da una vicenda così cruda come quella di un coma profondo, un coma irreversibile. Essendo un coma profondo, noi abbiamo da un lato una persona che, per quello dicevo, non è facile, anche se sembra la solita proposizione, da un lato abbiamo una persona che vorrebbe la continuazione della specie, quindi c'è un istinto e quindi legato anche all'amore per una persona, e quindi vedere in questo figlio un domani questa persona che non c'è e che con ogni probabilità non ci sarà più. Però nello stesso tempo dobbiamo citare anche il fatto che questa persona rimuove completamente tutte le caratteristiche che sarebbero legate a una genitorialità di questo genere. Per cui ancora una volta abbiamo una legislazione che si pone sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista pratico. La persona in sé chiaramente sta cercando, banalizzo ma è inutile, di rifiutare il concetto di morte, che è uno dei tabù della modernità in effetti. Quindi mi dai ragione su quello che stavo ipotizzando all'inizio: il senso della scomparsa ha una sfumatura molto lenta, data anche da alcune possibilità che mette a disposizione la scienza medica, ad esempio in questo caso, di avere, diciamolo anche se il termine sembra crudo, un clone del marito scomparso, una possibilità di avere una sopravvivenza in una generazione della persona che non è più quello che uno vorrebbe avere accanto. Ma dobbiamo anche inquadrarlo in un ambito psicosociale. Più le società sono opulente e più viene foraggiato il tabù della scomparsa, cioè dà molto fastidio. Nella società opulenta americana già degli anni 60-70, per esempio, era sconveniente parlare di morte, come se si fosse parlato, che ne so, di atti sessuali o di escrementi, dava fastidio, non era buona educazione, perché la morte dava fastidio, perché c'era una realtà felice, completa, e quindi le persone rifiutavano. Questo tabù si innesta proprio nell'ambito di una società che presume di avere tutto. In questo caso noi, sia pure con la crisi, tanto anche qui per ripetere cose già dette, però siamo comunque in una società opulenta, per cui si rifiuta questo concetto della scomparsa, che comunque è antitetico completamente a quelle che sono le finalità delle persone che si muovono e si agitano come se fossero eterne. Sei d'accordo? Ieri abbiamo iniziato a fare questo ragionamento in maniera del tutto improvvisa, riflettendo sulla difficoltà di elaborazione collettiva delle centinaia di morti dell'Airbus scomparso nell'oceano. Ancora non abbiamo certezza, non abbiamo prova tangibile, non abbiamo nulla di visibile, di raccontabile su quei morti, quindi esiste una difficoltà generale di lutto. Fra le tante possibilità che abbiamo oggi di elaborazione di questo tabù della morte, c'è anche quella di vederla rappresentata nei mezzi di comunicazione di massa. Se manca quello, ancora una volta ritorna ad essere un tabù della modernità. Sì, è una percezione abbastanza sfumata, cioè la morte esiste nella misura in cui entra a far parte, è vero, di una realtà massmediologica. E quindi, senza scomodare la fenomenologia o alcune correnti filosofiche, dovremmo capire anche che la morte è, da un lato, tabuizzata nell'ambito della realtà mass-mediologica, però c'è una potentissima, se mi lasciate passare il termine, schizofrenia, perché la morte nello stesso tempo entra a far parte della realtà, esempio nello sport. Muore un tifoso, ormai, anche qui abbreviando i tempi, nella giornata, in tutto quello che è successo anche quello, come se entrasse a far parte a pieno titolo della realtà. Io mi sto rendendo conto per dare forza al nostro ragionamento della difficoltà. La difficoltà a partecipare a questo tipo di dibattito, un po' perché è una giornata di sole, un po' perché ormai siamo nella primavera avanzata e stiamo lambendo l'estate, un po' perché nessuno vuole parlare o sentir parlare di qualcosa che è faticoso da elaborare. Il primo atteggiamento del nostro ascoltatore è stato quello di dire ci teniamo le mani in tasca per fare gli scongiuri, e quello adesso è di una sorta di pneumatica difficoltà a intervenire al discorso in cui si vuole sviscerare, parlare e normalizzare come era normale nelle società arcaiche, ma nemmeno tanto distanti nel tempo. Io penso che almeno nel nostro paese questa operazione di tabuizzazione e di considerare pornografica la morte è avvenuta pari passo con il grande boom economico, man mano che le nostre case, le nostre abitazioni diventavano dei luoghi anestetici, privi del passaggio del tempo, arredati con mobili seriali. Allo stesso tempo abbiamo allontanato anche nelle case quei segni di pietà domestica e di trasmissione dei legami con le generazioni passate, che forse oggi ci fanno sorridere, come le foto dei cari scomparsi con il lumino davanti, che ci ricorda tanto qualcosa di ammuffito, di case di vecchie zie, di vecchie nonne, però questa faceva anche parte naturalmente del nostro passato. Sentiamo Patrizia. Patrizia, buongiorno. Pronto? Patrizia, eccomi. Sì, sono io, buongiorno. Niente, stavo ascoltando la sua trasmissione dove appunto si parla della morte, del fatto che non accettiamo la morte o che quella signora vorrebbe... accettarla in generale non è mai stata un'operazione molto semplice. La sento malissimo. Comunque, dicevo, sì, no, accettare la morte non è mai stata un'operazione tanto semplice, faccia il kamikaze di mestiere. Assolutamente no. È impossibile accettare che questa persona non la vedi più per tutto il resto della tua vita. Però mi ricollegavo un po' alla signora che voleva un figlio. Forse dal marito in coma, forse non è tanto forse per non accettare che lui muoia, ma forse per non sentirsi sola. Sì, adesso non entro nello specifico, non abbiamo elementi e dovrebbe parlare la signora, non possiamo interpretare, certo, in un caso così delicato. Però l'idea che viene è quella di poter avere qualcosa del marito che sopravviva, ma in fondo è la ragione più profonda per cui si fanno figli con una persona in maniera consapevole, perché sì, si vuole insieme a quella persona creare quella che io chiamo una trappola per la morte. Fare un figlio è una trappola per la morte, perché uno, vedendo un figlio che gli somiglia, che c'è qualcosa di sé, dice ho fregato la morte. Io spesso metto in fila alcune foto di famiglia dei miei nonni, dei miei genitori, miei, di mio figlio, mi rendo conto che nelle somiglianze genetiche inoppugnabili la morte viene fregata, perché in fondo in qualche maniera qualcosa di me rimane, questa è la speranza. Esatto, cioè, forse perché non vuoi scomparire, non vuoi essere, cioè, in fin dei conti è anche il motivo per cui secondo me, io mi sono sempre domandata, tante volte l'artista crea un quadro, crea, o il fotografo fissa un'immagine, ci mette la firma, in fin dei conti non scomparire, non smettere di esistere, perché comunque le persone che vedono quel quadro, che vedono quella foto, che vedono, cioè, si ricordano, leggono un nome e effettivamente dici tu non sei scomparso. Sì, ma, diciamo che però un figlio è qualcosa di più di un quadro, un figlio che in sé ha dei tratti, cammina. Devo dire forse che con la nostra società siamo molto più spesso soli, per cui forse uno dei motivi era anche quello, forse quello di dire vabbè, non ho più, cioè, mi manca il compagno, mi sento sola, insomma, ecco, ma è sempre un po' egoistica la cosa, per carità. Sentiamo Loredana. Loredana, buongiorno. Loredana è caduta? Ecco Loredana? Sì, buongiorno. Eccomi qua, sì. Loredana, la sto sentendo. scusa, non sento bene. Non era psicologicamente pronta a rispondere alla telefonata, ma adesso può parlare tranquillamente. Non sento bene. Comunque, beh, parli, noi la sentiamo. Noi la sentiamo. Volevo portare la mia testimonianza. Cioè, io ho perso il marito 26 anni fa, avevo 26 anni, con una bambina di 2 mesi e mezzo, è morto in un incidente in montagna. Sentivo ieri si parlava della scomparsa, di non poter rivedere le persone. Io proprio mi sono, i miei non volevano lasciarmelo vedere, io mi sono proprio, diciamo, ho voluto con tutte le mie forze vederlo, perché, e questo mi ha aiutato proprio a affrontare, a elaborare il lutto, a elaborare tutto quello che mi si parava davanti, il distacco, l'abbandono, anche proprio per dare un segno concreto a mia figlia mano a mano che cresceva. Quindi lei ritorna all'argomento di ieri, ricordo il vigile del fuoco che parlava di incidenti aerei, dice che in molti casi, casi di grandi disgrazie collettive, è importante avere un contatto comunque con le salme degli scomparsi. Posso ascoltare la radio perché non capisco. Signora, lei dovrebbe tenere il telefono vicino all'orecchio, la radio dovrebbe poi tenerla spenta, se no le fa solo fastidio. Va bene, Loredana ha delle difficoltà di ricezione, saltiamo Loredana e sentiamo allora il nostro ospite, Mauro Cosmai, psicanalista e appunto sessuologo, su queste telefonate, su queste possibilità di definire un termine molto condannato alla nostra società come quello appunto della morte, di cui si parla molto poco volentieri. Ma anche qui ci riferiamo a quanto detto prima, c'è un dire e non dire, cioè sì, timidamente si accenna all'egoismo, si accenna alla possibilità, da un lato si giustifica la condizione del volere, della perpetuazione della specie, del poter continuare, avere qualcosa di tangibile, quindi che, come dicevi giustamente, possa ingannare la morte. Dall'altro però subentrano poi le altre motivazioni che sono molto più pratiche. Qui interviene paradossalmente, ma paradossalmente è la legge che in un certo senso risente un po' delle nostre componenti ideologico-religiose, per cui bisogna essere in tre, no, per poter fare un figlio, quindi occorre il consenso di una persona, dell'altra, e fare il figlio. Nel momento in cui manca questo consenso è come se questa nuova vita che nasce non sia consacrata sufficientemente, in quanto deve rientrare in una trinità, in una trimurti che è classica anche della nostra cultura, insomma. Al di là, diciamo, di questo tipo di lettura, però le società in generale non sono mai poste molto questo problema, è molto moderna la necessità comunque di considerare i figli come esseri sociali prima che abbiano appunto la maggiore età. Beh, ma nella promulgazione di questa legge comunque c'è un retaggio ben preciso, questo non possiamo negarlo, tant'è vero che adesso la situazione è stata bloccata con questo, chiamiamolo cavillo, anche se il termine non è esatto, diciamo che in ogni caso le persone restano, non prendono una posizione netta, anche perché, senza voler fare adesso delle interpretazioni esasperate, che non è certo, però da un certo punto di vista entrano nel merito di una loro personale, magari di un loro personale coinvolgimento, e dall'altro però agiscono come esseri sociali, e quindi subentra invece la condanna per un eventuale atto che potrebbe essere sostituito da altre azioni, diciamo, più sociali, quale l'adozione. Che però, scusami, l'adozione rientra nel tuo libro tra i tabù della modernità? Sì, perché qui la popolazione si divide, è vero, cioè ci sono persone che, anche per motivi ideologici oltre che affettivi, dobbiamo essere sinceri, partono in quarta dando per scontato che in ogni caso il figlio sarà loro, gli vorranno bene come se fosse un figlio naturale, però anche qui diciamo il differenziale semantico è vario, poi ci sono quelli che adottano senza poter avere figli, quelli che adottano avendone già di propri, eccetera eccetera. Comunque questa è la prima categoria. L'altra, grossolanamente riassumendo, è quella invece delle persone che dicono: no, io non riuscirò mai a volergli bene, perché non è sangue del mio sangue, quindi escludo completamente. D'altra parte anche la stessa legislazione, tanto per ripetermi, ha comunque sempre vidimato queste situazioni, le selezioni, i disagi, le umiliazioni, le difficoltà istituzionali erano sempre comunque legate al fatto che sì, doveva prendere un figlio della colpa. E quindi in ogni caso il genitore biologico, con tutte le tare mentali possibili immaginabili, basta che possa fare un figlio, nessuno ovviamente gli dice nulla, mentre per adottare un bambino bisogna dimostrare di essere come minimo dei pedagogisti o degli educatori o degli scienziati, e in un certo senso era, senza voler essere troppo accademico, ma è un'interpretazione punitiva di quello che era il figlio della colpa, insomma. Una sorta di riscatto che viene dato. Mauro Cosmai, ti ringrazio, l'appuntamento è tra un istante dopo le informazioni della borsa. Il tema della trasmissione, a cui si può chiamare telefonando all'800 24 00 24, è come elaboriamo il senso della scomparsa. Stiamo parlando della scomparsa, è un termine che difficilmente riusciamo ad accettare, perché siamo sempre convinti che possa esistere qualcosa, qualcuno o qualche ritrovato scientifico o qualche formula risolutoria che possa allontanare da noi il senso totale e assoluto di scomparsa. Lorenzo, buongiorno. Senta, noi partecipiamo purtroppo a funerali continuamente e ultimamente ho subito una riflessione interiore, un mio piccolo percorsino. Ma perché continuamente, qualche circostanza professionale per cui partecipa continuamente? No, però amici, parenti, insomma. Ma non è che succeda tutti, sempre, sì, ogni tanto, ma io spero che... No, si spera sempre di fare il meno possibile. Ogni tanto succede, sì, è chiaro. Ogni tanto succede, sì. Ma forse non ho usato l'aggettivo esatto. Comunque, ho notato una diversa partecipazione ai funerali da parte della gente, nel senso che qualche anno fa erano tutti molto più impegnati forse a pensare al percorso del trapassato, di stare vicino alla famiglia. Adesso invece vedo un continuo distacco della gente, nel senso che magari durante la cerimonia la gente chiacchiera o parla di altre cose. Oddio, si battono le mani addirittura, io ho visto battere le mani. Addirittura, è una cosa ignobile secondo me. Lo trovo ignobile anche ai matrimoni, onestamente, una cerimonia religiosa. Assolutamente, in tutte le situazioni. Però ho visto battere le mani alla fine del ricordo al funerale. Lei pensa che l'ultimo film della trilogia, che ogni tanto, qualche decennio, appare sui mostri della nostra... dei nostri vizi nazionali, nuovi mostri. Uh-huh. C'è un episodio di cui parlai qualche tempo fa, in cui c'è Abbatantuono, mi pare, un altro suo collega, che fanno gli attori, vanno a fare i personaggi pubblici VIP ai funerali, si fanno pagare per andare ai funerali e fare un ricordo dello scomparso che non conoscono, ma come i VIP vanno alle feste su cachet, vanno ai funerali su cachet, che non è molto lontano secondo Verissimo. Me dalla realtà. Verissimo. Allora io penso una cosa, e ho pensato, ma porca miseria, ma visto che vediamo morti continuamente, soprattutto in televisione, magari mangiando cena con i nostri amici, la compagna, i parenti, guardiamo il telegiornale, vediamo continuamente morti, esplosioni, aerei che cadono, ci saremo troppo abituati a questo? Ma secondo me esistono piani diversi, che le forme di elaborazione tradizionali dei lutti, che sono appunto i funerali, hanno assunto, sono uscite dagli schemi tradizionali e si sono sempre più avvicinati a quelle che sono le cerimonie pubbliche, cerimonie mediatiche. Quindi un funerale assomiglia tanto, non so, a un talk show, a un reality show in cui ci sono i personaggi comprimari, c'è sempre l'impressione che qualcuno guardi, qualcuno osservi. Quindi invece che essere una cerimonia fuori dal tempo e fuori dal mondo, proprio per trovarsi in questa zona liminare e avere l'ultimo contatto con qualcuno che sta incamminandosi per un percorso che non è certo quello della vita concreta, si è nel tempo pubblico, e quindi nel funerale, chiaro, si chiacchiera, si parla del più e del meno, si battono le mani, non si fa più quella sorta di presenza attiva che permette una lenta possibilità di elaborazione di quel lutto. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando. La sento. Tutti sentono male questa mattina, ma ci sarà un problema di trasmissione. Pronto? Siamo sul nuovo studio e stiamo mettendo a punto i nostri apparati. Lei parli, che la sentiamo benissimo. Sì. Io volevo... Se spegne la radio, però sentiamo meglio anche noi. Volevo dire due cose. La prima è questa. Secondo me la vera morte è l'oblio. Quando siamo dimenticati, allora veramente siamo morti. Capita spesso di morire da vivi se l'oblio è la vera morte. Molti di noi sì. Hanno l'impressione di essere dimenticati, anche se poi sì. Non hanno certo l'età sì. da essere cadaveri. Infatti, quando uno è completamente solo e dimenticato, non vive. Guardi che la scomunica, che è una delle più grossi anatemi che possono essere dati ufficialmente verso l'essere umano, sia questa persona non può essere più comunicata, nessuno può comunicare con lui, non può più comunicare, quindi è un morto vivente, è un vero zombie se è incomunicabile. La seconda cosa, volevo portare una mia esperienza personale. Io ho visto in faccia la morte alcuni anni fa, avendo avuto in ospedale un collasso dovuto molto probabilmente alla quantità di farmaci che mi venivano dati a causa di un herpes zoster, cioè il fuoco di Sant'Antonio, che mi ha colpito al viso con paralisi parziale della tutta la parte destra del viso, eccetera eccetera. Quindi si è reso conto che stava morendo lei. Io mi sono reso conto che stavo morendo e devo dire non sono mai stato così sereno come in quel momento. Ma ha visto il tunnel di luce, tutte quelle cose lì che si dicono? Prego? Il tunnel luminoso con tutti i parenti che chiamavano, come dicono quelli che hanno avuto un'esperienza di premorte? No, non ho visto quello, ma ho avuto uno stato di coscienza libera, se mi consente questa espressione, per cui non avevo più nessun interesse, nessun timore, nessun motivo di preoccupazione, ma avevo una serenità di spirito, mi rendevo conto che stavo morendo ed ero sereno per anche pensando a tutte quelle altre persone che forse non sarebbero state. Quindi ha avuto modo di capire che in realtà il senso della scomparsa se l'ha ambito e se vissuto con la pulsa di poi poterlo raccontare vorrebbe dirci non è poi così terribile, così non atterrisce quel momento come noi pensiamo che sia. Non solo vedo le cose, perlomeno le cose terrene e materiali, in una maniera molto più serena e molto più tranquilla, ma da quel momento io veramente non ho più paura della morte. Se la morte che ci aspetta, che noi pensiamo sempre, traumatica, addirittura probabilmente la pensiamo anche dolorosa, ecco, dico non è vero, non lo è. Mauro Cosmai, proprio in conclusione del tuo intervento, rispetto a questo ventaglio di opinioni, quest'ultimo signore che racconta, come raccontano tanti, quelli che sono andati a vicini al momento della scomparsa, ma che in fondo poi scomparire non è questa tragedia che noi pensiamo. Ma mi viene in mente, scusate se lo cito, un titolo di un mio libro del 2001, Comunicare e scomunicare, dove riguarda appunto le patologie, però anche quest'ultimo signore testimonia da un lato una realtà, mi viene in mente Epicuro, senza fare dotte citazioni, che diceva non devi temere la morte perché quando ci sei tu non c'è lei e quando c'è lei non ci sei tu. Nella realtà è tutto molto diverso, noi continuiamo a vivere e malgrado le pezze, i tamponamenti delle religioni, se guardiamo bene, anche qui fatemi passare la estrema linearità dell'interpretazione, tutti ci comportiamo comunque come se non ci fosse nulla dopo, perché sia pure nell'ambito di promesse varie, di nirvana e mondi e paradisi vari, la gente vive attaccata al suo attimo, per cui in ogni caso, poi la realtà magari è diversa nel momento in cui la si vive, ma nel momento in cui non si è a contatto con la morte viene comunque temuto, tutti i nostri comportamenti, non dico nulla di nuovo, però va sottolineato, sono legati comunque a carpire l'attimo, a vivere il presente, identificare il presente col futuro, per cui dobbiamo tener conto di questo. In tutto ciò che facciamo, come dicevi prima, c'è effettivamente un desiderio di ingannare la morte. Ecco, l'inganno della morte, io prima parlavo di trappole della morte, esiste una fattispecie molto singolare, molto poco conosciuta nel nostro paese, che ogni tanto mi piace tirare fuori perché me ne sono occupato in passato con grande curiosità. È quella di una figura che in realtà riassume in sé tutte le caratteristiche per noi più meravigliose e che allo stesso tempo più ci atterriscono della femminilità. È quella di avere la capacità e il potere di amministrare sia la vita che la morte. Questa figura è un personaggio fra lo storico e il mitologico, ma con addentellati concreti nelle cronache degli ultimi decenni, che si manifesta in particolare in una regione italiana che è la Sardegna, è la femmina Cabadora. Io parlai altre volte della femmina Cabadora. La femmina Cabadora nella società arcaica sarda era la levatrice. La levatrice in certi momenti veniva chiamata non soltanto per far nascere bambini, ma per finire gli anziani, i morenti, i malati. Quindi li accabava, quindi li uccideva. Con varie tecnologie, ho girato abbastanza la Sardegna, ho visto le ultime tracce di femmine accabadore. L'ultima di cui si parla risale a un processo negli anni 50 in Gallura di una levatrice che appunto fece morire un vecchio di 70 anni. A seconda della latitudine e della zona in cui si produce con un martello di legno chiamato sumazzolu che dà in testa un colpo preciso e uccide, o soffoca col cuscino, o in particolari zone ha una maniera molto dolcissima di portare alla morte i suoi bambini, i suoi pazienti. Li prende tra le gambe, li mette proprio con la testa fra le cosce, canta loro una canzone, mentre questi sono rapiti dalla canzone o semi addormentati, con un colpo secco spezza loro il collo. Sulla femmina Cabadora una mia amica, una scrittrice, ha appena pubblicato un romanzo, è Michela Murgia. Michela Murgia, buongiorno. Buongiorno. Tu hai fatto un romanzo sulla Cabadora, per Einaudi, intitolato proprio A Cabadora. E su questo ti farò parlare fra un istante, perché devo mandare le informazioni dal traffico, poi mi dirai cosa hai tirato fuori da questa leggenda storica o da questa storia leggendaria così vicina alla tua terra, al tuo modo d'essere. 800240024, stiamo parlando del senso della scomparsa, stiamo facendo un percorso molto tortuoso e siamo arrivati a parlare della femmina Cabadora con Michela Murgia, che ha scritto un romanzo per Einaudi proprio intitolato A Cabadora. Ecco Michela, c'è, visto che parlavamo di tabù, un senso di grande difficoltà quando si va in Sardegna e si domanda in giro notizie sulla femmina Cabadora. Hai trovato anche te questa difficoltà? Sì, l'ho provata, fortunatamente sono usciti molti saggi in merito che raccolgono anche testimonianze interessanti, importanti di persone anziane che raccontano di aver visto all'opera l'ultima Cabadora, seppur in senso rituale. Credo che questo timore, questo tabù sia un brutto segno, perché riconoscere la morte all'interno di una normalità anche della vita, evitare la contrapposizione vita-morte, è un modo anche per, giustamente tu dicevi, l'elaborazione. La ritualità è fondamentale, la ritualità nel lutto sta veramente al lutto come la masticazione e la nutrizione. Ci sono dei bocconi che hanno necessità di essere sminuzzati attraverso il cerimoniale. La Cabadora faceva anche questo, tra l'altro. Non era casuale che fosse la levatrice, che avesse questa maestria nel dare e nel togliere la vita. Aveva delle tecniche molto, molto particolari. Io sono stato a Sindia, dove ancora mi hanno fatto vedere i giochi, sì. I giochi dei buoi che usano per spezzare il collo. Fino agli anni 80 li usavano in ogni famiglia. Si faceva questo rituale, che era un rituale simbolico. Quando la persona stava in una lunga agonia, si diceva che ciò accadeva perché aveva rubato un gioco a un'altra famiglia. Rubare il gioco, penso, in una società agricola significava condannare a morte una famiglia. Quindi mi hanno fatto vedere il rituale, si passava il gioco dietro al collo con delle formule, ma in realtà quando il gioco passava dietro al collo del vecchietto si appoggiava con un colpo secco su una vertebra e la spezzava. E mi hanno detto che fino agli anni 80 era abbastanza normale in tutte le famiglie avere il gioco che si era usato per quella cosa. Quindi in Sardegna sarà già risolto il problema dell'eutanasia senza... Ma io non l'accosterei. La Cabadura e l'eutanasia sono proprio due cose che secondo me non sono accostabili. Intanto perché, come hai descritto giustamente tu, si tratta di morti anche piuttosto brutali. quindi parlare di dolce morte è un po' improprio. È vero che il contesto dell'accabbadura è un contesto di fortissime relazioni, dove non esiste il concetto di autodeterminazione. L'accabbadora è la risposta collettiva a un bisogno individuale, noi oggi lo considereremo individuale. L'eutanasia è proprio nel contesto opposto, tu pensa a cose come il testamento biologico è il supremo atto di autodeterminazione. Noi ci ponevamo questa mattina il problema se una persona in coma potesse autodeterminare il fatto di concepire un figlio, la moglie lo vuole, figurati quanto siamo lontani da questa concezione in cui è il clan che decide ciò che è bene e ciò che è male. Esatto. Sì, sì, è proprio così, li trovo inaccostabili sia per contesto, non solo per modalità appunto nel dare la morte, sia uno poteva morire ai tempi della accabbadora non perché non sopportava le sofferenze, ma perché era la famiglia a non potersi occupare di lui, quindi era la famiglia che non sopportava le sue sofferenze. Quindi l'idea in qualche modo, oggi tutti vogliono che tu resti vivo a tutti i costi, però i costi ricadono solo su di te, sulla tua famiglia, e non esiste più quella rete di relazioni sociali che permette di sostenere come comunità quella sofferenza. Senti, tu come hai fatto a rientrare poi in una trama romanzesca questa figura della accabbadora? Come l'hai contestualizzata? L'ho contestualizzata nella maternità, nel senso che questo libro avrebbe potuto intitolarsi tranquillamente L'ultima madre anziché accabbadora, perché proprio in quel contesto storico l'accabbadura è una delle possibili sfumature della maternità, così come ti aiuto a nascere, con la stessa logica ti aiuto a morire, perché non ti sei fatto da solo in nessun momento della tua vita. Grazie Michela Muggia, sentiamo Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, volevi sapere il mio cruccio? No, volevo sapere quello che volevi dirci. Quello che volevo dire, che avevo detto anche alla collaboratrice, era questo, che il mio cruccio non è tanto il morire, ma il finire. Cioè è una distinzione che io faccio in funzione del fatto che morire è associato normalmente alla tradizione qui da noi cattolica, in altre religioni, che so, orientali, alla una reincarnazione, cioè c'è sempre una prospettiva dopo la morte. Però per una persona che non ha questi feeling con religioni, la prospettiva non esiste più, salvo forse quella biologica, alla quale io non credo perché non me ne importa. Io, quindi secondo te l'idea di una sopravvivenza dopo la morte è soltanto legata a all'accettazione di una pratica religiosa? Individualmente uno non può avere la sensazione comunque di essere infinito, di non continuare, di non poter avere una fine estrema. Pronto? Pronto? Sì. Non sto capendo in questo momento cosa sta accadendo. Stai sentendo quello che dico? No, io adesso ti sento, ti sento meglio, sì. Ah, quindi il mondo non ha sentito quello che ho detto in questo momento. Vabbè, non importa. È un problema di emissione, non è un problema. Stiamo mettendo a punto uno studio. Quindi dicevo, cioè, è secondo te inscindibile da una pratica religiosa o da una visione religiosa della vita il poter avere una idea di sopravvivenza dopo la morte? No, in genere è così. Storicamente le religioni hanno sempre dato una prospettiva dopo la morte. Adesso io non le conosco tutte, però indubbiamente questa prospettiva ti aiuta poi a vivere, a sopravvivere. Quando uno non ha religione, usa la sua religione personale, che sicuramente lo fa comunque andare avanti, lo fa godere, lo fa essere comunque moralmente... Vabbè, quindi lei pone tutto capace. Nella vita concreta, nella vita terrena, pone tutte le speranze, tutte le attese, quindi quando questa finirà, per lei finirà tutto. È una delle maniere appunto per concepire la scomparsa. Nino, buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare quello che mi è capitato da poco, perché è venuto a mancare mio padre, ricoverato d'urgenza, vabbè, poi è entrato vivo, è uscito morto dalla sala operatoria, questo 2 giorni fa. E ho voluto fare tutto, io abito poi al centro nord, sono originario del sud, dove lì si ha tutta una mentalità particolare sia dei matrimoni e sia dei funerali, dove si fa a gara a chi spende di più, e quindi innescato da tanti anni un meccanismo di un business enorme, se vogliamo. Quindi deve essere una cerimonia pubblica e opulenta anche il funerale, anche l'accompagnamento all'ultima dimora deve dare il senso del potere terreno della famiglia. Provocando addirittura la contestazione di chi magari contesta questo modo di fare, tutta questa sfarzosità, perché accusando la persona interessata addirittura di non fregarsene niente dei propri cari perché magari non prende la barra che costa 3.000 euro. Vabbè, questo è chiaro, siamo in una società in cui il senso dell'appartenenza, del sentimento e del sentire viene valutato in termini di potere d'acquisto, ma forse è una vicenda anche abbastanza vecchia. Il potere d'acquisto da dimostrare alla società, al gruppo umano, al clan a cui si appartiene, deve essere ostentato nei momenti epici della nostra esistenza. Uno è quello del matrimonio, di cui abbiamo già parlato, e l'altro è quello dell'accompagnamento all'ultima dimora di un caro scomparso. Anche questa è una maniera forse per riempire un vuoto. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0. 2.0.